radiovisione, radio vivore, modulazione da Bancali, Bancalino per l'esattezza, cambio. L'umbici ciuccia ciuccia ciudulle dulle morra poco bello gallo nel furro. Brecco brecco brecco, attenzione attenzione, rosso modulazione da Bancali, Bancali provincia di Sassari, cambio. Ora ora ora, brecco brecco brecco, attenzione canale 10, canale 10, radio vivare in modulazione dalla SS 131 al chilometro 215, in spostamento verso sud, cambio, breco, breco, breco, attenzione, attenzione, canale 10, rosso da radio vivare in modulazione dalla Sierra, Sierra 131, cambio, breco, breco, breco, qua rosso a Sparviero, però radio check, Sparviero ci servi, cambio. Attenzione, attenzione, breco, breco, breco, breco, brecolo, brecolo, broccolo, brecolo, cambio. Breco, breco, breco, attenzione radio Vivaro, evoluzione, cambio. Attenzione, Lupo Grigio, mi ascolti? Lupo Grigio, ci sei? Carta, ti dicevo, ti dicevo. Adesso sei salta così, ma la radio è tutta vibrante, non si capisce nulla. Adesso sei uscito bene, forse era qualche cosa che c'era nell'aria. Ehi, sono qua. È peggiorato. Adesso sei Santiago 3, prima è di 6-7 mi pare. Questa che antenna è? Dimmi però che antenne sono. Sì, adesso sei Santiago 4 e mezzo, dai. Ma di quelle che si applicano a portate. Tu adesso però mi devi dire che condizioni c'è, se sei con l'alimentatore, se che apparecchio stai usando, tutto quanto devi dire, se no non capisco com'è la situazione. E qua sono molto molto più basso, Santiago 2 sì, sì da Santiago 2 a Santiago 5, e io voglio, con l'alimentatore ti ascolto 5. Eia, e mettici il Midland invece che mettere quello, mettici la lampada 8. Andare, ma il Midland non lo usi mai, sempre a basso sì. Deve essere l'antenna, non deve essere l'alimentatore. Prima uscivi 5 con l'alimentatore. Adesso sei arrivato 4, cazzo, prima eri 1. E secondo come ti metti, però usa l'antenna ad attaccare alla caldaia, con la base magnetica. Se no cosa ce l'hai a fare quella? È il Midland. Voglio vedere come esce. Davvero. Aspetta. Non ti sento lui. Cosa? Ti ho chiamato, non ti sento. Sembra di no. E sicuramente sei una plattamona, portatore, su. E se lo metti in un cassetto non si vede. Lo metti nel cassetto come facevo io e non lo toglievo nemmeno. Lo chiudevo il cassetto buio. Ah, mobile non va bene. A me perlomeno non piacerebbe così. Così a me piace il fisso. Infatti io non l'ho messo il fisso, non ho messo la stampa. Quando me ne vado lo pongo in via. E infatti io faccio così. Perché cosa ci sono le cose da abitare? Ci sono per quello, per staccarlo quando ti serve, lo stacco, quando ti serve lo stacchi, quando ti serve lo riattacchi. Ti fa degli attacchi a bananina, ci metti le banane femmine con le maschere e ti stacchi anche il contatto elettrico. E perché lì ci vanno i tossici, capito? Il topino di tossici vanno a farsi. A forse la noce quei gradini, se lo stai attento ci metti più sulle siringhe. E rubano quando magari sono consumati quelli delle loro macchine, si rifegano e si ripiantano, così non pagano nulla. E lo so, si stanno facendo il giro per rubarli, non è capito che si fanno un giro per rubarli. No, rivendono le carrozzine, rivendono. Quando si incidentano le macchine che li perdono, ce li hanno e capito. Rivendono certe carrozzerie di quelle robe. Ah no, io c'ho il posto macchina, non c'ho il garage, però il posto macchina ce l'ho. Ah, quello lì da noi l'abbiamo comprato, ci è venuto 500.000 lire a testa, ogni posto macchina. Abbiamo pagato per, ognuno c'ha il suo, lì sono numerati. 500.000 lire a testa? Sì. Ah, non l'hai pagato nulla. Infatti, però abbiamo messo un tanto in più. Ah. Sì, anch'io ho posteggio auto all'interno, ma c'ho l'atto, mi è costato 10.000 euro, cioè 10 milioni all'ora. Anch'io ce l'ho l'atto della casa e comprende anche il garage e il posto auto. Ah, io ho due atti, uno della casa e uno del posto auto. Vabbè, con chi stai parlando che non lo sento? Con Lupo Grigio. Vedi la pulisce l'antenna, te l'ho detto io, mettete l'antenna. Va bene, Lupo Grigio, ci sentiamo, buona serata, vai, avanti qua. Non arrivo qua, io se non sento con chi devo parlare, col muro. No, noi quando nell'87, quando hanno consegnato, 87, sì, praticamente c'erano due atti, uno della casa e uno del posto auto, capite? Perché inizialmente andavano coperti, poi invece nessuno ha voluto mettere altri quattrini, allora ce li abbiamo presi così. Ne avevo pagati con l'atto, compreso di atto, 10 milioni. Che a te era arrivato il pagapò, quanto un garage però l'avevo fatto pagare. No, io, il nostro era compreso, dovevi aggiungere 500.000 lire ed era compreso con l'atto. Se aggiungevi qui, se no non te lo davano. Ma se lo compravano gli altri, magari tu lo affittavano, c'era gente che se l'ha comprato e lo affittava 40.000 lire al mese, se ha fatto di via. Tutti i lineari con le serrande normali e la macchina entrava dentro, capito? Una macchina, e quindi sono stati accatastati come garage. Poi siamo rimasti posto auto, ecco perché li abbiamo pagati così, 10 milioni ci hanno scritto nell'atto, valore del posto auto 10 milioni, anzi del garage auto 10 milioni ci hanno fatto proprio del notaio Maniga. A me me l'hanno chiesto un sacco di gente, se glielo affitto, se glielo do, io ne ho due, non ne ho uno, io ne ho due, perché c'ho quello mio e più quello dei miei suoceri, capito, che fa capo a questa casa, mentre io avevo venduto senza il porto auto e quindi me lo sono tenuto perché avevo sempre due macchine, capito, KK, e vabbè, vabbè. Sempre bene, sta andando sto garage. Sì. Ah, va bene, le regolazioni fatte. Sì, sì, tutto a posto. Non avevo dubbi che era quello, perché il VR1 era al massimo. Hanno passato, adesso non lo ricordo, un'altra resistenza variabile, praticamente con l'RF gain al massimo, non hanno fatto un casino, hanno tirato troppo lo smitter e vabbè, li ho regolati comunque. Adesso con l'RF gain a massimo è così, con l'RF gain a minimo porta il segnale a zero, prima no, non agiva, capito? È il segnale attuale, se no va più 20. Ecco come stai arrivando tu, uguale. I watt sono 10 sempre, l'importante, modulati 13-14. I miei sono 9 e poi modulati sono 10-11. Tirato a manettone, se no rifai partire il finale. No, ma infatti la manetta, ho detto che lo smitter andava con lo scala. Ho visto qual è che c'è scritto in quella far che mi hai mandato tu, VR13 mi sembra, VR12, VR13 forse. E ho messo i watt col wattmetro. Ed è giusto, Quello della radio è giusto, ho messo 10 watt alla radio, 10 watt, 10 e qualcosa, dai. Appena appena sullo strumento, però è giusto, come riferimento è giusto, lo prendo come riferimento, vabbè. No, sono contentissimo di questa radio, veramente. È nuova, nuova, funziona da Dio, c'è una ricezione da favola, veramente. Molto molto bella. Avevi ragione, io è anni che non ce l'ho più, adesso rimane qua, vita naturale durante, molto bella. Poi c'è questo abbinamento microfonico che è bellissimo, va bene. Cosa le hai messo le MP più 5? No, questo è il Tanner, questo è il Tanner più 3B. Ah, hai visto, che va bene con questo, questo va benissimo. Infatti ti stavo per dire, la radiovisione delle vintage che c'hai. Bella, bella, sì. Vabbè, perché il Turner è praticamente alla stessa connessione del DAC, capite? Del DAC e del Pony. Se no non avrei potuto cambiare, non l'avrei messo. Invece lo uso, adesso l'ho messo qua fisso. Al DAC l'ho rimesso l'MB+5, al Pony momentaneamente l'ho rimesso quello delle game, capito? Perché questo lo lascio stare qua, va bene. No, già va bene questo qua. Ma questo va bene, la radio è bella, forte, è bella, chiara. No, già va bene, già va bene. E anche gli altri già si difendono, il Midland, l'Inuit, tutte queste vanno bene. Questa però mi piace più come radio, capito? Come radio in semi. Almeno è completa, c'ha tutto, capito? Mi ha chiamato Tonino, l'operazione è andata tutto bene, è uscito all'1:30, la nostra operatoria, dopo domani li rimettono tutti e due. Cosa avete messo avanti? No, mi hanno dato la foto stamattina che era col camice per doveva andare ancora a operarsi, ma dovevano ancora operare, ci ha fatto le fotografie con il camice di sala operatoria. E non hai visto che sembrava bombolo, quello del... Antonio, che sembrava bombolo quello dei coci, hai visto, quello Gamice, paria gravido, fatto è tanto, tanto, Tony, gli ho detto, adesso che ti hanno operato e che sei un po' più in forma, cammina molto a piedi, lascia la macchina, lascia gli stravizi, dice io stravizi non ne faccio, vabbè, ma evidentemente stai mangiando male, perché stai ingrassando troppo, devi dimagrire e vedrai che stai molto, molto meglio. Io gli ho scritto vai sereno e torna vincente. Già vincente, le fa male ancora un po' la schiena, come l'hanno tutto giudonato, però detto, stai tranquillo da un paio di giorni e sei nettamente in forma. Allora, speriamo che anche coso, come si chiama? Che anche Cinco riesca a camminare bene, perché io gli ho detto un'operazione più delicata, gli ho messo delle piastre, questo inferno. Con Emanuele non era solo quello, ci aveva un'ernia qui, là, l'hanno tutto massacrato, però cioè, già l'hanno rimesso in sesto. Speriamo bene, ecco perché non ce la faceva più a camminare, povaccio. Non aveva solo l'ernia del disco, ma via altre rigose, buh. Che? Avanti! Ciao Gianni! Ciao Claudio! Allora l'operazione è andata bene, sono contento per loro. No, perché a me mi ha mandato un messaggio stamattina alle 5 del mattino, 5:30, ti puoi immaginare, e mi ha scritto grazie allo stesso. No, e poi gli ho risposto, gli ho detto grazie lo stesso di cosa? Siccome lui mi aveva mandato la fotografia di Ginko, mi aveva mandato, no? Nel letto. A quel punto però solo una fotografia, ma non mi ha detto niente, nessun vocale, nessun messaggio scritto, niente. E stamattina, questa l'ho mandata ieri la fotografia, stamattina alle 5:30 sento il telefonino. Guardo, grazie allo stesso. Ho subito risposto, ma grazie allo stesso di cosa? Fammi capire, perché io non posso capire se tu non parli, se non mi fai sapere qualcosa. Mi ha mandato la fotografia, però non mi hai scritto niente. Evidentemente ha fatto qualche confusione. Avanti, Ricla. Ciao, va bene, va bene. Non lo so, no, io ci ho parlato proprio al telefono, è uscito ad 1:30 dalla sala operatoria e niente, è andato tutto bene. Adesso dopo domani penso che riprendano l'aereo e rientrano, capito? Avanti già. Speriamo che si riprendano subito. Perché tutti e due sono da soli a casa, quindi non è che. Se non c'è qualcuno che gli dà una mano all'inizio almeno. Oh già, c'è l'ex moglie a casa di Tonino. c'è l'ex moglie lì, capito? Sta curando dei cani, tutto, si è trasferita lì momentaneamente. Così mi ha detto lui, quando rientra già ce l'ha l'assistenza a Tonino. Emanuele andrà a casa della sorella. Oh, vabbè, meglio così da se c'è qualcuno. Perché sai, io ci sono state quelle condizioni, quindi so cosa vuol dire che fai fatica al farti, a metterti in piedi, devi camminare con le stampelle, e poi non lo so se la loro operazione, quella di Tonino non tanto, ma quella di Emanuele, se gli hanno messo delle placche, non è una cosa semplice. Greco 10. Buonasera Gianni Lubrofetta da questa parte, buonasera a tutti, non so che ci sia in rotta. Ciao Gianni, Tokyo Blu, poi c'è Claudio Scorpiero e Giulio Romano. Buonasera a tutti, mi serve una cortesia, siccome ho ripristinato l'antenna all'ora di pranzo, ho rimesso tutto a posto e mi servirebbe un rapporto di segnale, per favore. Qua si fa uno scala. 10 qua da me. Ok, buonasera Giulio, non ti ho copiato bene, puoi ripetere per favore? Questo è grave, se non mi hai copiato vuol dire questo è grave. Ho detto 9-10, ciao Gianni. Ok, bene bene, grazie, allora è tutto perfetto. Con Claudio siamo sentiti stamattina, quindi non glielo richiedo neanche. Ok, avanti qua. K, scelto un attimo di bianco, ciao Gianni, io puntello quello che ti ho detto stamattina, ottimo segnale come sempre, la radio Super 5 è perfetta, te l'ho detto che sto appunto trasmettendo con un Galaxy Saturn Echo, lo smitter appena tarato, appena messo in perfetto appunto ordine come doveva essere perché l'avevamo toccato, quindi praticamente sia uguale al K. Stesso segnale che ti do con la Galaxy ti do col K uguale, preciso identico. Bene Meda, sì, adesso addirittura il lago delle stazioni non si muove neanche. Ho fatto tutto, ho regolato tutto a puntino, dai. Meglio così, avanti Giulio. Ok Gianni, va bene così, dai, tutto a posto, non c'è problema. Mi stai arrivando addirittura più forte di Claudio, pensa un po'. Va bene, va bene. Comunque Claudio, Gianni mi deve dare i diritti d'autore per quelle regolazioni, perché i dati li ho dati io, per cui vai da te Gianni. Paga Gianni. No, adesso deve pagare, ti deve pagare Claudio, non io. Ma io non ho un problema, ditemi quanto volete, io pago. Non è un problema, io infatti ho fatto le regolazioni perché so che gliel'avevi dato tu. C'ero io quando gliel'hai dato e lui ce li ha scritti. Ma l'ha anche detto che gliel'hai dato tu, quindi. Io certo se gliel'hai dato a Giovanni Nobbioli non mi sarei fidato, però so che gliel'hai dato tu e quindi mi sono fidato. E su quelle regolazioni ho fatto il lavoro che c'era da fare. Ho passato il watt perché l'avevano tirato al massimo. Ho messo con i watt suoi originali, sono andato con 10 watt. E lo smitter era un po' per i fatti ci avevano toccato sia il RF Gain sia lo smitter, quindi ho rimesso tutto in sesto ed è perfetto, funzionante al 100%, bellissima radio, me la ricordavo un po' più strana, comunque è molto bella anche da vedere, posto ne ho quanto ne voglio adesso, prima era un po' un casino, però sono contentissimo di averla di nuovo e sono sicuro di tenerla molto molto in ordine. Poi la modulazione mi dirai com'è Giulio, se ti piace o non ti piace il microfono interno è più 3B. Perfetta, la modulazione è perfetta, dunque va benissimo così, non c'è problema. Ma io l'ho sempre detto, se ricordate bene, io l'ho sempre detto, per me il Galaxy Saturn Echo per la 27 è il numero 1, chiamiamolo numero 2 perché c'è il DAC, ma però siamo lì, anche perché non è una radio normalissima, è un Almode, sicché è una semiprofessionale. Di conseguenza è la migliore in assoluto, parlando di base, premesso che a me le radio base non mi piacciono, ma quella mi piace, come sempre detto, sia il Galaxy che il DAC sono le due uniche radio base che mi piacciono, tutte le altre ben messo carraggi, anche se vanno bene ugualmente, non è che non vanno bene, però per i miei gusti non fanno. Avanti Gianni, Gianni doppio room. Ehi, stadio, poi l'Ecco si è riuscita a regolare. No, l'Ecco l'ho chiuso del tutto. Ho guardato il manuale perché me l'ha mandato Danilo in aiutami al telefonino in quello BMP, comunque ho sfogliato 34 pagine, sono andato alla schiera Ecco, siccome ce l'avevo aperta, ho visto che il trimerino era a zero e l'ho lasciato a zero. Infatti guarda, io metto Ecco, vedi, e non fa niente. Adesso lo riabbasso, l'ho chiuso, non mi serve l'Ecco già, no, non me ne faccio niente io. Stato praticamente chiuso, ho provato ad aprire il trimerino, funziona perfettamente, però non è ecco che non mi è mai piaciuto l'Ecco del Galaxy, non è ecco a reverbero, già va bene così, già l'ho lasciato chiuso la verità, però sì, funziona perfettamente tutto adesso. Quando volevi farlo funzionare lo facevi funzionare, come sto facendo io adesso. Adesso io c'ho l'Ecco del Galaxy. No Gianni, però tu stai usando il microfono normale. Cosa? Stai usando il microfono normale. No, sto usando l'amplificato, però gli ho tolto completamente l'Ecco dall'amplificato e sto usando quello del Galaxy. Ma c'è troppo, il manuale dice che l'Ecco si usa col microfono normale per non andare in contrasto con il microprocessore del Mickey Gain, capito? Te lo sto dicendo per dirti anche questa cosa, non so se lo sapevi, quindi o usi il microfono normale e le sue funzioni Ecco, oppure normale, oppure devi chiudere l'Ecco e usare il microfono a tavolo, allora non andrai mai in contrasto, questo c'è scritto, questo ti sto dicendo. Ecco perché secondo me l'Ecco non mi serve, anche perché se io voglio usare l'Ecco uso l'Ecco vero e proprio, non che ho la radio Colt 3009 Colt, quindi se mi voglio divertire magari qualche giorno sul 45 mi accendo quella e vado con quella, questa proprio la voglio usare così, col microfono a tavolo, tutto chiuso e va bene così, capito già? L'ho fatto proprio per quello, per non avere l'Ecco proprio tira sul pulsante, c'hai l'Ecco, fammelo sentire, invece non ce n'è, chiuso, capito? Sì, vabbè, dipende sempre dai gusti. Io glielo lasciato, poi quando lo voglio chiudere abbasso il massimo tasto e lo chiudo come ho fatto adesso l'ho messo con il microfono. E vabbè, comunque va bene, va benissimo. No, ti ripeto, non andare col microfono di tavola e l'Ecco inserito, perché sfrutti troppo il microprocessore del Mickey Gain e poi fare danno, capito? Come già successo un'altra volta, se ti ricordi che non uscivi di radio, questo è quello che c'è scritto, poi ti ripeto, ognuno è libero di usare la radio come crede e come vuole, io preferisco così, a me l'Ecco non mi interessa, non mi serve e quindi lo uso solo con la spinta del Mickey Gain della radio e basta. Vai Gianni Dubrofetta, poi vai per Giulio. Bene meda. Troia. Dai, sono contento che ho rimesso l'antenna. Ho visto che orientando il radialino, adesso l'ho messo verso sud, però non noto grandi differenze. Da quello che mi avete detto, mi sembra che funzioni bene ugualmente, quindi non ho zero problemi. Bene così, dai, avanti giù. Ok Gianni, così almeno quando l'hai messa a sud, almeno così puoi trasmettere anche con lo hotboard, come si chiama quel satellite, quella cosa, sì, satellite, appunto. Va bene, dai, già va bene, 9 più 10 mi stai arrivando pieno, per cui pensa che quasi mi stai arrivando 9 più 8, perciò, ma tu sei molto più vicino, per cui va bene così, vanno benissimo sia la tua che quella di Claudio, va veramente bene. Claudio, dai, resta così, non fare altro, non farti prendere anche tu dall'Ecco, da tutte queste cose, perché è una radio favolosa, va benissimo così. Meglio di così, mi pare che sia, vuol dire rovinare la radio, sia aumentandola come volume che come altre stupidaggini tipo Ecco, eccetera. Va benissimo così. Avanti Claudio. adesso il segnale, dai. Guarda a vedere quanto è adesso il segnale, sempre, sempre col Galaxy, quanto è il segnale adesso? Adesso è 9 più 15. 9 più 15? Ma è un poco generoso mi sembra quello, da 9 5 a 9 15 solo. No, da 9 5, da 9 8 ho detto, da 9 8 a 9 15. È così com'è, più alto è 9 15. 9.18, adesso è 9.18, c'è stato un break avanti. Ok, dai, lo prendo io. Ciao Claudio, 9.15 qua la mia stazione. Ciao Giulio, 8.4 tutti, Ciao Fra, buonasera. Ciao Gianni. Troppo basso sta arrivando Franco. Adesso Giulio, ancora più alto di 9.18, guarda a vedere. Oh, oh, la mazza di varia. Adesso è 9.20, manca un pelino, ma niente praticamente. Se immagina, immagina la tacchetta del 9.20, è un po' spessa come spessore, no? Anziché essere preso al centro, è proprio dal lato sinistro che poi va avanti verso destra quando aumenta la modulazione, no? È proprio lì adesso, praticamente 9.20, dai. Quindi da 9.8 a 9.20 va bene? Aspetta, se va bene, quanto devi guadagnare? Quanti batte hai dato però? 600. Vabbè, 600, tra una cosa e l'altra, vabbè, poi fai il calcolo, ne starai usando sì e no 300, 300, 350, non di più, perché tra perdite e balle varie è così. Hai detto di 600, 300, io faccio le 10.48, io faccio anche a 1000, non faccio le 10.48. Fai che ce ne siano 500, l'antenna 450. Fanno anche 450, ma per dire, perdi sempre, è chiaro che si perde, no? Non sappiamo benissimo quello. Va bene, comunque ultimamente bene, dai. La radio è sempre bella chiara, non si è, diciamo, rovinata, va benissimo così, non c'è problema. Avanti Franco, buonasera. La radio è buona, ha un po' di amplificazione, in Santiago è 7, però non è molto forte come volume di radio, però è buona, io ti ascolto molto bene, vai. Guarda adesso, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Adesso è diventata con più acuti, però non è che ha migliorato più di tanto, né più né meno uguale. Questo è il microfono normale suo, guarda un po', 1, 2, 3, 4, 5, 6. Guarda, ti dirò che questo microfono così è più pulito di quello dell'altro passaggio precedente, non dell'altro ancora, di quello che è fatto prima di questo. Io come ti arrivo con le 10.58? Tu sei 9 più 25, già, vabbè, chiaro Guido, siamo lì, siamo vicini. Capito Franco? Il microfono è buono, non ci sono dubbi. Usalo pure così perché va benissimo un nuovo microfono normale, non c'è problema. Avanti Rubro Fetta. Ehi, ciao Franco, buonasera, ben ascoltato. Anche io concordo con quello che ha detto Giulio, il microfono, l'ultimo microfono che stai usando va decisamente meglio. Avanti Fra. Ok, buonasera. Va bene, questo è il tuo microfono normale con la sua preamplificazione. Va bene Fra, va bene. 9 abbondanti e radio 5, dai. Ma a casa si fa. Casa no, sto lasciando un antennino però da Parigi. Che apparecchio è? Un S9 della maglia. Quello da 20 watt già di per sé. Vabbè, ma lo sto facendo uscire meno di 20 watt, quindi ti fa trappare. No, il mio non strappa. Il mio lo puoi mettere al massimo, non strappa. Ma l'alimentatore non ce la fa già, se la stava passando per quelli. Mi sono dimenticato di dirtelo a te. Li stavo ordinando Fabrizio, quelli da 50 ampere, 20 euro l'uno. Va bene, dai, ok, riprendi già, sto pulendo da Claudio. Cavaga, va avanti Claudio. Cosa? Riprendi. Ah, già, no, io te l'ho detto, io ho due, uno da 50 e uno da 30. Anch'io l'avevo pagato 25 euro col trasporto. Me l'aveva fatto, me l'aveva comprato Andrea, capito? E poi ne ho un altro da, da 30 ampere, quindi ne ho due, se no me l'avevo comprato un altro, non c'è problema. Già va bene, già va bene. Poi c'ho quello da Raimond da 50 ampere, il Prox da 50 ampere. E poi quello da 100 che fa 24, 12, capito? Ne sfrutto 40 ampere in... in a 24 volte 60 ampere ce li ho ancora 12 che posso sfruttare, voglio anche 230 ampere, quindi a voglia, va bene, va bene, avanti Giulio. No, era solo una prova, ho attaccato il amplificatore allo stato solido HF per farti sentire la differenza, ma quello è un amplificatore, quello allo stato solido è un LA1000 600 watt in AM, pieni, pieni, non giocattoli, pieni, ok, e in banda laterale dovrebbe dare, dovrebbe darne intorno ai 900, dovrebbe darne, l'ho già provato in HF, vabbè, la potenza minima perché no, non posso darle grande potenza, però ho paura sempre dei picchi di modulazione del K, quindi l'ho preferito non attaccarlo. Avanti, riprende e fai girare. Ma c'era anche un break in lontananza, mi pare poco fa, boh, non so se era già a Franco. Fate le mani per basso qua, boh, io ti ascolto, saltiamo 6, 7, non di più. Prima ti ascoltavo molto più forte. Avanti Giulio. Ok, ah, sì, vabbè, basso il segnale, Franco, sì, però di radio ce lo capisco molto bene, non c'è problema. Beh certo, con l'H1000 puoi portare quasi 5.000 watt, ti puoi immaginare, figurati se per 1.000 watt si offende, 900 watt si offende, ui, lascia perdere. Ammettiamo che altri che 4.800 per l'esattezza sono, dai. Mantiene 4.800 watt, perlomeno così è stato costruito quel cavo. E fallo che ne tenga 4.000, va sempre più che bene, no? A voglia. Mentre il coso, l'RD58 è proprio terra a terra, 400 watt nominali nell'anno, poi magari ne sopporta sia no 300, 250, 300, comunque andrebbe così. Va bene, avanti Franco, vediamo un po' cosa hai combinato. Breaker e breaker. Sì, ciao, va bene, avanti dai. Questo è considerato che non le prende Franco, le prendi tu, vai. Sempre di potenza state parlando, cazzo, l'unico che c'è più con pochi watt sono io qua. Sempre kilowatt, 800 watt, ma cazzo, ma è possibile, la corrente non la paghete voi? No, noi abbiamo un gruppo elettrogeno con la turbina, per cui lo... Io non l'ho mai avuto di lineare, per cui una volta me l'aveva dato uno Gianni a costo simbolico di 30 euro, ma era un 747 che dopo pochi giorni me l'ha bruciato il coso, il lampo, il fulmine, vabbè, comunque. E da allora è che ne ho mai più avuto, non ne ho mai avuto e mai ne comprerò, perché non mi interessa proprio. Avanti Gianni. Ciao Rombe, ben sentito, cordialità anche a te. E adesso costa 90 euro, se vuoi la GBC costa 90 euro quei lineari lì giù. Sì, ma è del suo Bottini, perché se me ne dà lui a me, per prenderlo non lo voglio, figurati. Cosa vuoi che mi tenete a me lineare? Che se ne frega? A me quando mi sentono basta, poi posso arrivare anche Santiago 3. Interessante che mi sentano bene in radio, poi per il resto non c'è problema. Tu sei presente, Roberto è presente. Ricordiamoci questa estate scorsa quando abbiamo fatto come si dice, collegamenti di propagazione 9.30 da Vagliano a te e 9.30 da Vagliano a me, per cui che problemi ci sono? Cosa mi devo ordinare? A cosa mi serve? A niente, a perdere tempo e a spendere soldi e a buttare corrente elettrica. Avanti il profeta. Eia. Sì, mi ricordo i collegamenti che abbiamo fatto insieme a te e a Roberto. Buonasera Roberto, visto che sei entrato in ruota mi dai un rapporto di segnale, Roberto, buonasera. 9 più 20 e qualche peluzzino in più, un pochettino più di 9 più 20. Radio 5 perfetta. Bene, bene, alla grande, ho fatto un buon lavoro, dai. Ragazzi, io mi devo assentare una decina di minuti e ci sentiamo dopo, ok? Fate girare, dai. Comunque non ho salutato a nessuno, di nuovo saluto a Giulio, Gianni e tutti e due Gianni, e poi di subito ho sentito a Claudio che mi ha acceso la lampadina a casa, infatti ho visto le lampadine accese, cosa sta succedendo? E c'era Claudio che stava modulando. Poco fa però, no, era solo una prova per vedere quanto incrementava da Giulio il segnale, quindi da 9 più 8 a 9 più 20, più che soddisfacente, tenendo conto che siamo sempre non molto distanti. Ciao Gianni, ci sentiamo dopo, là, siamo qua. Ehi, ehi, Roberto, no, io ho trovato con 10 watt il Galaxy Saturn Echo, va bene così, è giusto una prova, perché è giusto provare se l'impianto è a posto, ho visto che non fa una piega. Tutto in ordine, e Rogero, Rogero, ti ho mandato quella foto, visto che hai commentato, poi già ci vediamo domani mattina. No, interessante. Adesso parlando di assorbimento, lo sapete che oggi, ieri l'ho visto, quanto assorbe un 940? Quanti watt assorbe? E quanto? Ampere? No, sto parlando di watt, vabbè, poi si fa il rapporto. Che è alimentata a 220 volt, assorbe 650 watt, un apparecchio che tira 100-150 watt, diciamo, in banda laterale, ne assorbe 650. Se poi di lì ci metti magari un lineare di un kilowatt, fate un conto cosa avevo di contatore per farlo camminare. Cosa hai fatto? La legge di Ohm è messa in pratica, tensione e watt, è per quello che ti dà un wattaggio così alto. No, l'ho fatta io, si può fare la legge di Ohm, no? Però siccome nell'involucro, quella è alimentata a 220, e dietro c'è scritto 600 potenza massima, 650 watt il consumo. Ah, ho capito, no, questo non lo sapevo. Va bene, sì, no, perché si può fare così, ma insomma, per qualsiasi apparecchiatura non c'è problema, anche per una semplice lampadina o un televisore, qualsiasi cosa, basta mettere in atto sempre quel calcolo lì, non c'è problema. Avanti Gianni. Va, tu puoi dire, è sempre la solita formuletta che se lo puoi fare per qualunque, sia per l'alternata, perché la continua. Tu Gianni di già, bravo, comunque sì, quell'apparecchio lì hanno assorbimenti allucinanti, solo per gente che se lo può permettere. Ma io ce li va vedendo, ti devo essere lì. Allora, per rispondere a te Giulia, intanto io allineare quello che uso normalmente è lo stato solido, ok, è a 24 volt. Se poi devo usare i due grossi che ho, uno della Kevo e dell'altro della Iaesio, quelli fanno male alla tasca, perché quelli sono uno da 2 kW e mezzo e l'altro da 2 kW, 1 kW e 8. Capito? Quelli fanno male alla tasca, ma quelli allo stato solido, alimentati a 24 a transistor, non consumano niente, sono più sani e non consumano niente, capito? E per quello io sono andato su queste cose qua, perché tutta i radioamatori soprattutto si stanno usando molto questi lineari dell'RM Italy, i più grossi che fanno, per capirci, questo è uno dei più grossi, i più grossi che fanno proprio allo stato solido, o quelli della Microset, capite? Che sono ancora meglio di questi dell'RM Italy. Io ne ho uno della Microset, però è da 200 watt in VHF, che sono come stai usando un kilowatt in HF, né più né meno. Ok, va bene. Robè, allora, se tu immaginati che valvolare proprio è un... prendiamo un baracchino valvolare, con quante valvole ha? Ricezione, trasmissione, 4, facciamo 5 valvole, a metà dell'assorbimento di quello che usa, quanti watt può usare un baracchino, quanti watt esce? 4 watt, 5 watt, è chiaro che quello, avendo 150 watt P&P, l'assorbimento è quello, vabbè, però, è così, dai. La matematica non è un'opinione, la legge di Ohm l'hanno fatta per quello, però le radio sono radio e la busciacca è la busciacca, l'Enel è Enel e Cimbrana è Cimbrana, vai Giulio. Infatti, l'interferenza è interferenza. Quando attacca una cosa del genere, ma cari dai, lui, vabbè, comunque va bene così. A chi piace, a me la verità non mi ha mai convinto il lineare, eppure me lo potevo comprare e me lo posso comprare volendo, ma chi me lo fa fare a me, mettendo il lineare, magari capita che c'è l'interferenza, e poi da quel preciso istante non vivo più, perché vengono a rompere le scatole anche se si mette un piccione sulla loro antenna. Ma che me lo va se va? Per fare cosa appunto? Per guadagnare che cosa? Da 9 a 9 e 20, magari si affutti. Io l'ho preso così. Va bene, dai, avanti Robert. Allora, quando c'era Salvatore Maestrale, molte volte sul tardi ci sentivamo, ci mettevamo d'accordo e ce l'avevamo, era un po' un canale dove non c'era nessuno rompimento di scatole, c'era per non dare effetti da nessuno. Uscivamo con mezzo watt, noi non sto scherzando, mezzo watt, ci ascoltavamo perfettamente uno con l'altro, lui era a Parma, io era a Sassari, ci mettevamo in FM con mezzo watt e ci ascoltavamo perfettamente, proprio per evitare di disturbare le cose. E arrivavamo tutti puliti i segnali senza niente. E poi città, cosa ne è se arrivi 9.20, 9.30, una volta che sei a 9 di segnale, c'è una buona radio ed è perfetta, cosa cambia avere 9 o 9.30, 9.40, allora che non sei attaccato a uno all'altro, a quel punto come Claudio, qua mi arriva a fondo scala, ma anche se mette 3 watt Claudio mi arriva a 9.50, ma è normale, ve lo dico, cosa ne abbiamo? Solo consumo inutile, poi se vedi devi fare collegamenti, a quel punto lo posso anche capire, dai, c'è propagazione, dai, proviamo a collegare quello lì, però è inutile che tu arrivi e lui, cioè che arrivi tu e non riesci a ascoltare a lui, io faccio sempre quello, deve esserci il giusto compromesso, ricezione con trasmissione, è inutile che io li metto 2 kW e mi ascoltano a Parigi, però a loro io non li ascolto. Allora, spero che non ce l'abbiate, non vi siete dimenticati che è Claudio Sparviero, io sono un animatore, è chiaro che se ho un impianto d'antenna direttivo, ho necessità, come tutti i radioamatori nel mondo hanno necessità dell'amplificatore HF, perché se lo skip è lungo non ce la fa, e se c'è il pile-up di una confusione enorme, se non è potenza non entri, se devi fare un collegamento a lunga distanza ti serve fare un country molto interessante, è chiaro che se non spingi non entri, non ti fanno passare. Tant'è vero che io è da anni che sono dentro l'armadio e i miei amplificatori HF a valvole, ok, prima di decidere di smontare tutto avevo comprato questo allo stato solido ed è chiaro che l'ho provato, va benissimo e lo tengo in molto considerazione, ma a me non me ne serve l'ideale Giulio, non ne ho mai usato dal 1990-92 che io non uso amplificatore 27, perché uso il cable e quindi mi aiuto con quello e i miei 20-30 watt sono sufficienti, non ho bisogno da qua su io di attaccare niente, come vedi sono con 10 watt e ti arrivo lo stesso, era per volevo capire quanto incrementava lì da te, ma però è sempre lì fermo, tranquillo, se serve già lo uso, se serve già lo uso, a differenza di qualcuno che in città è sempre con un lineare attaccato, nonostante glielo dico, vabbè, pazienza, ognuno fa quello che le piace. Avanti, doppio rucco. Adesso è molto alto, adesso sei 9, abbondante radio 5, cosa hai fatto? Ma quella antenna per me è troppo bassa, questa va molto bene, vedrai da Giulio li arriverai sicuramente molto più forti adesso, avanti Giulio. Sì, ma così l'ha aumentato, ma niente di particolare, un'attacca o fra. E vabbè, d'altronde l'antenna è quella che una volta, quando Franco aveva l'antenna sul tetto, era quello che mi arrivava più forte praticamente. Per cui, però, se non c'è antenna, non c'è, basta, l'antennino è sempre un antennino, o un dipolo è sempre un dipolo, perché è messo nella condizione in cui è messo, per cui non può rendere al massimo. L'antenna è antenna, sul tetto, da quell'altezza dove abita lui, è meraviglioso, ripeto, era il più forte di tutti in assoluto. che ne avevamo prima, quando Franco aveva l'antenna sul tetto. Va bene, avanti Roberto. Sai che saluto a Franco, ciao Franco, ben sentito, dove ti trovi? Sì, ma dove? Zona con la Valcanica, con la zona lì stai? Comunque qua il tuo rapporto è quasi 9+5, dai, quando parli arrivi a 9+5. Ok, e chi tocca adesso? C'era qualcun altro? Vediamo Gianni se è rientrato, se no riprendi tu Claudio. No, Gianni al telefono. Figurati quando arrivava a me, vabbè. Ci ho vissuto a casa di Franco, l'abbiamo piazzata assieme con l'antenna, quindi già lo so. Era molto più favorevole a te che a me, ma qua aveva un segnalone lo stesso, quindi lo so perfettamente Giulio, se ce li hai vicino non c'è niente da fare. È lì vicino a casa di Gianni, quindi è chiaro che ti arriva molto forte, però io non mi posso lamentare, va bene così. L'importante è che tutti mi sentono, non ho mai avuto problemi. Poi per quanto riguarda le interferenze, Giulio, io ho usato anche kilowatt, non ho interferenze, ma le uniche mie interferenze sono i burracci. Non ho antenne sotto di me, non c'ho niente sotto di me, sono sempre superiore a tutti, capito? A tutto il mio vicinato. Sono molto molto più in alto, quindi io non disturbo nessuno, mi ha mai detto va, a prescindere dall'interferenza. È chiaro che se tu vuoi attaccare un amplificatore lineare come quello che ho io, anche allo stato solido, per il più piccolo che sia, ma c'ho anche il 1300, sempre per la 27, vai a attaccare cose del genere, e se in un condominio basso o in un complesso basso, è chiaro che vai a interferire. Io non ho di questi problemi. Va bene, allora cambio per Gianni Profetta, ha detto 10 minuti, vediamo se c'è, se no riprendi tu Giulio. Gianni non c'è, riprendo io, beh certo, soprattutto adesso nelle condizioni in cui esco io, cioè con l'antenna e con la game master, figurati se posso mettere un lineare, che già gli sciogli subito, perché te la danno per 500 watt, ma sono convinto che 500 watt non li sopporta. Ma con l'antenna, con la mantova, sì, la mantova le puoi dare anche 2000 watt e li tiene, perché la mantova, il cavo è buono, H1000, per cui meglio di così. Ma con la game master, lasciamo perdere. Ottima antenna, arriva dappertutto, funziona bene, silenziosa rispetto alla mantova, tutto quello che vogliamo. Però sorda, perché prende solo la 27 bene. Anche in 10 metri si sente bene. Però se passiamo in HF è sorda, perché col segnale che avevo prima, che avevo prima per dire con la mantova turbo, anche 9.10, 9.20 mi arrivavano da fuori, io parlo dei radiomatori. Adesso proprio i radiomatori quando arrivano forte, ma veramente forte, mi possono arrivare Santiago 6, 7, non di più. Però di solito mi arrivano 2, 3, mi sento lo stesso, d'accordo, però non c'è quel segnale che c'era quando c'era la mantova turbo, perché la mantova turbo ha un'altra orecchiabilità, un'altra ricezione, per cui va bene così. Avanti Roberto. E appena ogni antenna c'aveva dei pregi e dei difetti, a te non ti biasia perché suonava, ma io sono sicuro facendo qualche lavoretto con qualche cosa, parlo mettendo quelle sono risonanze di flussi di aria, quel fischio che c'era si poteva attenuare, ma i tubi dei cose, radialine della manta, ma i tuoi erano aperti o chiusi Giulio? Sono aperti, sono dei tubi da 10 mm, proprio tubi, non solide, sono proprio un tubo, e dunque è forato, e sarà per quello che suonava, che ne so, forse perché erano troppo. Però resistentissimi, perché io ho visto che si mettevano i volatili, si mettevano anche in 5-6 su un radiale tranquillamente, eppure non me ne hanno piegato mai uno. Io ce li ho nuovi, sono perfetti, dritti come quando li ho comprati, per cui vedo un po', devo dire che strutturalmente la mantova è straordinaria, anche elettricamente è straordinaria, a parte il discorso che di tanto in tanto si interrompe il fatto di essere cortocircuitata, ma per il resto è è magnifica veramente, non posso dire di più, anche se a qualcuno gli si è rotto lo stilo centrale che gli si è rovesciato, senza fare nomi, a Tino ad esempio, perché Tino la Mantova, ecco, tornando al discorso, si può rompere la Game Master, sì, anche la Mantova si può rompere, perché lo stilo centrale a Tino gli si era rotto e infatti ha dovuto rimediare in qualche maniera. Bene, bene, avanti Gianni. È al telefono Gianni Profeta, si è spostato Gianni, lo firmo al telefono. Ma quanti anni ce l'aveva Tino quella Mantova? Dice Maria Gara. A me non mi è mai successa una cosa del genere, mai, io non ho mai avuto un danno alla Mantova. Io ho bucato la Regina col TL922, ho fatto un passaggio in FM, non me ne sono accorto, e l'ho bucata, ho fatto un rientro in RF e l'ho bucata, capito? Ma ti parlo degli anni forse 85, 86, 80, no, che cosa sto dicendo? Sto dicendo fesserie, sono arrivato qua nell'85 e nell'89, 90, una cosa del genere, capito? Gianni Capri, poverino, ma ormai ne ha un'altra. Ti mando la foto, sono rimasti i quattro radiali, no? Come che tu monti l'antenna, piazzi i quattro radiali e poi devi innestare il centrale. È sparito il centrale, l'ha spezzato di netto il vento e se l'ha portato via. L'avevo sentito questo fatto qua. Sì, ma dov'è che si rompe? Non è che si rompe lo stilo, si rompe la resina, dove appunto è inserito lo stilo centrale. Se rompe quello, è perché sarebbe una buona cosa rinforzarlo anche con un bastone di legno dentro, intanto c'è tutto lo spazio per poterlo mettere, farlo uscire magari una cinquantina di centimetri fuori, e un bastone fatto di proposito è fissato in modo che quando picchia molto forte la resina si sa prima o poi cede, invece se c'è un bastone di legno insieme dentro la resina e prende anche lo stilo e va più che bene. Io penso che si possa fare, infatti è bellissimo quello. Per come è costruita l'antenna è un sistema che va molto bene fare così, con una grande sicurezza comunque, dai. Perché se cade lo stilo dell'antenna e sotto c'è la macchina, sono problemi, perché quella incomincia a essere pesantuccio, anche perché devi pensare che il tubo della base è 4 cm e mezzo di diametro e non è poco, poi andando è diminuendo man mano che salgono gli elementi, però se cade in strada su una macchina fa del danno, non è uno scherzo. Avanti Roberto. Ma quando si rompe una mantova o una parcella di antenna, il problema è dal palo di sostegno, cioè l'effetto frusta, l'abbiamo detto anche l'altro giorno, se tu fai le cose come deve essere fatte, perché sono i contraccolpi, per dire, il vento se spinge continuo in una direzione, mica cambia continuamente il vento, spinge in quella direzione lì e si piega, però se tu ti dà un colpo di vento e poi il palo ti fa frusta, che ancora gli arriva un contraccolpo allucinante, si spaccano tutte così, infatti quando metti la stella di tirante, come la chiamate voi, io la chiamo la stella di fissaggio, di lì a calcolare bene le distanze, se no se c'è un fallo appena flessibile ti dà il contraccolpo, la migliore antenna del mondo ti si tronca in dubbi, lo sa più meglio di me tu Giulio. Sì, la ralla, tu stai dicendo la ralla, no, ma io in 49 anni di frequenza non ho mai messo un tirante, mai, né nella casa dove abitavo prima e tantomeno qua, eppure ho messo sempre un palo resistente come si deve, perché è autocostruito, non è il tubo o il palo che vendono da Fusaro ad esempio, quello per le antenne TV, no, io me lo sono autocostruito, anzi mi sono fatto dare una mano da Giulio il meccanico, ho comprato il tubo, ho comprato da Marcello, ho comprato i dadi con i bulloni in acciaio inossidabile, ho fatto saldare il dado al tubo, Giulio è un grande saldatore, mi ha sempre dato la mano quando ha avuto necessità e ho sempre fatto così, e quando voglio lo tiro giù come niente fosse, perché il dado non si è mai arrugginito, perché sono di acciaio inossidabile, per cui meglio di così lavoro, quello è un lavoro fatto come si deve, casco o robe, a cannocchiale, il tubo cannocchiale sta dicendo in quel modo, riprende e fai girare. E io non lo so, io ho fatto la stessa cosa, ho preso tubi d'acqua da Marcedo, grossi, anzi neanche Marcedo, me li ho fatti dare dall'idraulico, da Paolese, mentre invece Paolese, tubi grossi, belli robusti, zingati, saldato il dado sul tubo, e il bullone era 17, passo 10, con la testa in acciaio, tutto in acciaio inox, bello ingrassato, lubrificati, quando devo smontare ci metto un attimino. Poi ho fatto quella modifica che mi avevi detto tu per allungare il cosiddetto, purtroppo sono obbligato a metterlo in tirante perché è molto alto, il palo mio è 9 metri, per cui ci voleva per forza quel palo per evitare i problemi. Ho fatto quel braccio che mi avevi detto tu con quel sistema, grazie a Dio ce l'ho dal 2005, gennaio 2005, ha 16 anni adesso, ha fatto con l'antenna lì, è sempre dritta e bella, non posso dire niente. Se li fai bene i lavori con i tiranti come avevano messo, ci sono due serie di coso, di tiranti calibrati bene, distanze fatte bene, tutto calcolato, io mi ho fatto prima il disegnino, progettino e l'ho piazzata sull'antenna, e ti posso dire, non per vantarmi, è fatta a regola d'arte. Ok, facciamo rientrare a Claudio, avanti a lui, Claudio non è necessario, di Barba che a 40 metri d'altezza ci mancherebbe, si mette pure il palo. Io c'ho una qualificazione che qualcuno si è spaventato, pensava che tutte le volte che lo racconto, che lo dico, stavo dicendo stronzate in gergo molto, molto italiano, però chi l'ha visto, l'ha visto Luca Flipper, l'ha visto Luca del Monte, il mio sistema, è un sistema fatto veramente a regola d'arte, sono le piastre a muro con tirafondi da 16, con barra filettata da 16 che passa di parte in parte, il tubo di piantone mio, il mio piantone è da 3 pollici, non da 1, non da 2, ma da 3 pollici, è innetta, 3 pollici, 2,5, 2 e 1,5, alla Mantova, tutto in Baia Panoa, quindi io non avevo bisogno di comprare niente, perché quando facevano i lavori i tubi che avanzavano me li portavo a casa, sempre con autorizzazione, capito? E li ho fatti come ha fatto Giulio, forati col trapano a colonna, saldati i dadi e messi, però il buco che ho io non è per chi ave da 13, mio per chi aveva 17, per capirci, quindi bolloni belli robusti e il passante per chi aveva 17, tutte e tre sono così, anzi tutte e quattro tubi, sia quello che è a terra come piantone, sia gli altri tre che salgono. Io non ho bisogno dei tiranti, non ho aggiudinanti, non ho aggiunuta, perché così erano le direttive, la stessa cosa, uguale, precise identiche, l'impianto va fatto bene e non temo né vento né intemperie né nulla, quando è fatto bene e va bene, e la Mantova, la cosa bella che tu devi fare in quell'antenna è lubrificare di grasso dove c'è il connettore del PL, io non voglio sentire ho vulcanizzato, ho messo il cappuccio crea problemi perché si riempie l'acqua, si crea umidità, il PL deve essere libero, avvitato